Cosa vogliamo con questa petizione? Intanto che si attivi un dibattito per un'adeguata informazione della cittadinanza, perché il percorso che si è attivato con questa richiesta di autonomia differenziata è un percorso che può, e non esagero, portare alla disgregazione dello Stato unitario e alla formazione di diversi sistemi legislativi su tutto il territorio nazionale e del tutto dissociati tra loro. In un'efficace sintesi che cito, è stato detto che se si può porta avanti l'autonomia differenziata si va verso un'Italia delle repubblichette. E allora sono due le questioni che con la petizione appunto vogliamo porre. Una, la mancanza di dibattito pubblico e quindi di conoscenza da parte dei cittadini, perché questo problema viene non a caso, a mio avviso, tenuto proprio sotto traccia. E due, il pericolo che l'introduzione di sistemi legislativi, come dicevo, disomogenei su materie di importanza fondamentale incida negativamente sulla tutela e sulla garanzia di diritti fondamentali e assolutamente irrinunciabili dei cittadini. E questo su tutto il territorio nazionale, naturalmente. Viene pretesa autonomia differenziata su materie quali salute, e vediamo quello che sta succedendo, su scuola, ricerca scientifica, infrastrutture, porti e aeroporti, rapporti tra Unione Europea e Regione, beni e attività culturali, protezione civile e roba di questo genere. Queste materie sono nodali, si capisce, il titolo stesso lo dice, e non devono, non possono, a mio avviso e a nostro avviso, essere sottratte alla potestà legislativa dello Stato, perché di questo si tratta. Chiedendo autonomia, maggiore autonomia differenziata, si chiede di sottrarre allo Stato la potestà legislativa su materie di questo genere. Ora, lo Stato è l'unico a poter garantire uniformità di trattamento, ad avere il potere dovere, come dice l'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli alle disuguaglianze. Non sono certo le regioni. Togliere allo Stato la possibilità di legiferare su queste materie significa paradossalmente garantire le disuguaglianze sul territorio. Del resto, voglio dire, assistiamo da un anno ai disastri che si sono creati e si continuano a creare sulla materia sanità. L'emergenza sanitaria ha messo proprio in evidenza quanto le disuguaglianze nella gestione delle risorse e nell'organizzazione territoriale possa creare disuguaglianze rispetto alla garanzia dei diritti dei cittadini sulla salute. Ora, il disastro a cui assistiamo quotidianamente sulla salute si creerebbe su tutte le altre materie che ho appena citato e che non sono di poco conto, perché, ripeto, si tratta di scuola, di formazione, di cultura, di infrastrutture. Ora si dice dai sostenitori di questo progetto disgregativo che comunque si dovrebbe legiferare con legge quadro che potrebbe garantire l'equilibrio e l'uniformità dei diritti. Ecco, questo non è vero, questo non è possibile, perché l'articolo 116 della Costituzione al terzo comma, introdotto dalla, secondo me, terribile riforma Bassanini nel 2001, questo articolo dice e comanda che la legge di approvazione delle intese proposte dalle regioni allo Stato centrale rispetto a una maggiore autonomia sia una legge non ordinaria, ma una legge in qualche modo rafforzata da un'approvazione di una maggioranza assoluta e non relativa. Quindi, scusate, entro un po' nel tecnico, ma bisogna anche capire il mondo istituzionale in cui ci si muove. Una legge approvato con maggioranza assoluta dei due terzi degli aventi diritto non potrà mai essere in qualche modo organizzata o scalfita da una legge ordinaria approvata con maggioranza relativa dei presenti, neanche degli aventi diritto.